71FM sono. Ma vabbè, dell'FM non ce ne fate nulla. Fra poco i tedeschi non ci sono più, fra un'oretta, quindi comincerà quella propagazione spagnola e brasiliana. Sul 9, sul canale 9. Bobolino! Ah, mi manca, quella ragazza dei canali mi manca, lo sai. Peccato che non è più entrata, evidentemente o si è sposata, ha trovato qualcuno. Prima era sempre attaccata al baracchino, mattina e sera, ragazzi. Evidentemente ha trovato qualche imbecille, si era sposata, cazzo, ha mollato tutto, ragazzi, nei canali. Deve essere stato un punto, cazzo, proprio nevralgico, cazzo, perché arrivava in Sardegna mattina, sera e notte, in inverno d'estate, cazzo, bello è quello, cazzo. Oh, yeah. Questo baracchino, sì, è bello. Noi, cioè, alla fine ci abbiamo tutto qua, però, ultimamente, c'è gente stupida. Vabbè, lo sai che ormai il baracchino è passato, non vale più niente, quindi non è come prima, che prima uscivamo tutti in giro, in greffa, con le macchine, andavamo al quadrato, ci pigliavamo mezzo quadrato, per dire, tutto per i fatti nostri, ormai la cosa è cambiata, no? Siamo 3-4 gatti, cosa vai? Quando andiamo a beci una birra, per dire, non vale neanche più la pena, cazzo, a un certo punto, da CB. Quindi, problema è quello. Pazienza, ormai, le cose stanno così, vaffanculo, sono cambiate. C'è internet, c'è di tutto, anzi internet è peggio, realtà, perché un sacco di gente si sta trovando che è rimasta incappettata, perché da soli agli altri, poi si lamenta, dice cazzo, gli ho dato 60 euro quella, non mi ho fatto niente, mi ha preso per il culo, non c'è venuto a Sassari, capito? Quindi un sacco di gente sta notando che forse era meglio usare il telefono che usare il computer. E conosce qualche persona, intanto trova solo in culante, quindi meno male se la stanno accorgendo adesso. E ora, dopo tanto, un bel di gente è rimasta fregata, ritornerà come una volta. Ma mi manca niente, dice la scusa del computer, il telefono con l'internet, insomma, tutte queste cose. WhatsApp, grido, guidaccio, ma... vabbè, non è questione di computer, eccetera, eccetera. Questione è più che altro di gelosia. E quando una volta che tu, per dire, ti fidanzi e ti sposi con una c'è baracchino, in automatico dicevi, scegli a me o scegli il baracchino, e cosa è quello. Hai capito? È come avere... Vabbè, prima... La questione della gelosia è la baracchina, adesso c'è il telefono, quindi le cose non cambiano niente, la verità. Forse magari tornando come una volta, perché ormai c'è il 5G, quindi controlli tutto in casa tua, chi entra, chi esce, a posto tuo. Adesso faranno così, a un certo punto la gente dice, si programma, come si chiama, il telefonino, esci, quando esco di casa, chi entra a posto mio, chi ci trova il camera a letto, hai capito? Preferisce comprare 5G alla moglie, 5G se lo compra anche lui, quindi sembra che sia una telecamera, capito? L'abbiamo voluto noi, come si dice, no? La colpa è la nostra. Prima invece non c'era niente, si usava quella specie di 8007, che sembrava una bacinella, sembrava. Prendevi i telefonavi, tanto per dire, pesava mezzo chilo già la batteria, vabbè, a parte quei telefoni 450, quella valigetta, cazzo, ci voleva un chilo e mezzo di roba, di spalla ci voleva. Poi sono nati tutti i telefoni nuovi, eccetera, eccetera, adesso gli smartphone, dopodiché sono i 5G e quindi fanno tutto. Puoi cercare anche addirittura agganci quella cosa che in cerca chiave, tu immagini solamente la tua moglie, cazzo, c'è che cade di casa e tu sei dove è casa tua moglie, cazzo, a un certo punto. Dice, no, guarda che sono da vestitissa, no! Venga a prenderti io, non ti preoccupare, sei a casa della tua amante, cazzo. Basta, arriveremo a quello, te lo sto dicendo io. Antonio! Se avevi ragione, ancora 5 minuti, da fare l'appunto della mamma. Ah, per il diabete. Vabbè, quello si deve fare per forza. Quella purtroppo, anche quella è una brutta bestia. Tanto mi pompo. La vita è questa, siamo tutti di passaggio, una di gridi, chi più chi meno. Sì, non lo so già. Ogni l'anno, meno male, sono tranquillo, il Covid non l'ho preso. Però Simona, la verità, ci è passata a fianco al Covid. Dove era ricoverata lì, c'era una tipa che aveva il Covid e non gli aveva detto niente, lo sapevi? In medicina. Immediatamente, dopo una settimana, a me non mi hanno detto niente, dice venga, si prenda, dice, le cose di sua moglie e abbiamo trasferita. E tu dove? Dice abbiamo trasferita, dice San Pietro. Dice venga con la, quando entra all'interno, in pratica gli mettiamo questa cosa verde sopra. Mi ha detto non appoggi nessuna busta nel letto suo o cosa del genere, non la baci, non la tocchi, non è niente. E ha detto perché cosa se non ci ha bloccato? Ha detto mi scusi. E lui ha detto è stata fino a 5 giorni fa, ha detto in medicina, ha detto non deve fare niente, dice deve fare, dice, in quarantena, mi ha detto. Hai capito? Non mi hanno detto niente, nulla, che in pratica c'è una di quelle che c'aveva a fianco a lei, era positiva al Covid-19, gli hanno messo quella specie di maschera, non quella che metto adesso, ma quelle tonde, di quelle grandi, ce l'hai presente che c'è la fascia che stringe dietro, quella gli hanno messo, hai capito? E io cazzo coglione, cazzo, mi dovevo mettere i guanti, cazzo, i guanti, poi dovevo mettermi la mascherina, questa specie di cosa verde, di retina, sembrava la retina, cazzo, per andare cazzo, a pescare cazzo pesci, cazzo. Ma picchiriola ci vuole. È dura, allora, diglielo Natale. E aspettavo, me l'ho detto, ciao Natale, non mi avevo detto niente. Che quella fianca a lei era positiva, capito? Immediatamente l'hanno trasportata da quella camera lì a un'altra e da lì l'hanno trasportata a San Pietro, hai capito? E si è fatto la bellezza di 20 giorni di quarantena, dopodiché mi ha detto, dice, sua moglie sta bene, non c'è niente, portano a casa, hai capito? E da lì mi è un cazzo, sei del Covid, nulla, non c'è traccia, non c'è traccia di niente. L'ospedale civile, guarda, hanno fatto quella specie di padiglione nuovo, sono peggio del padiglione rosa, tu entri e esci morto, uguale, la stessa identica cosa, non cambia un cazzo, senti dentro, sei tranquillo, fatti dove le parla perché se lei è, ne esci morto, ne esci da lì, le malattie che mai si è mai sognato a un certo punto, ma che pare cazzo, che ti devi pigliare il Covid cazzo, dentro all'ospedale quando non hai mai avuto niente, trasmesso da chi? Dagli esterni, non trasmesso dagli interni naturalmente, trasmesso dagli esterni, il discorso è quello, ormai siamo arrivati alla sassa, a questo livello qua, perché se ne sono sempre sbattute le balle in Sardegna degli ospedali, capisci? C'è l'ospedale di Tiesi che poveraccio che non c'ha dipendenti, c'è l'ospedale di Itili, se senti qualcosa, cosa costava allora assumere le persone, medici, infermieri, cosa del genere, queste cose non sarebbero successe, questo è poco ma sicuro. Ma siamo avuto il Covid? No, meno male no. Hai capito? Ma l'ho messa in quarantena, hai capito? Per non avere il Covid, c'era una a fianco a lei che come diceva me, ma non avevo detto niente, hai capito? A me quando entravo io nella camera, io entravo con la mascherina, mettevo la mascherina e anche quella cosa verde, quella specie di lettina, ce l'hai presente, e i guanti, quindi figurati tu. Infatti ho detto, cazzo che strano, ma hai fatto mettere una cosa del genere. E ho detto, perché vuoi mettermi questa roba? Lui se la mette, ci sono le freghe, mi hanno detto, hai capito? Però non mi hanno detto niente, se avessi saputo l'avrei denunciato, questo è poco ma sicuro. Non mi hanno detto niente, e questo è partito da gennaio del 2019, per sapere, perché 2020 ce l'avevamo già, 2019. Aspetta un attimo, avevo da fare la puntura a mano. Purtroppo è così, non ti dico un cazzo, questa è quella. Ciao Natalia, avanti, riprenditi la tua. Quando sono stato ricoverato io, mia moglie non la facevano entrare, a nessuno facevano entrare, ma hanno rotto pure il culo lì. Quindi figurati tu, io sono stato il primo Natalini, che a me per farmi entrare dovevo entrare con i guanti e dovevo lavare tutte le mani con qualcosa, con disinfettante, figurati tu. Lì a San Pietro, al secondo piano, non al primo, al secondo piano, poi c'è il terzo, già lo sai che è sopra. Lì a San Pietro, dopo che nascono i bambini in fondo, che adesso c'è la questione non mi ricordo se i vaccini, che cosa hanno fatto o quello che è, ma comunque sia, è così. Medicina, adesso non mi ricordo come cavolo si chiama lì. Quando sono entrato io all'ospedale, la prima volta non facevano entrare a nessuno più. Ogni giorno 19.000. Poi cazzo, sono passato due volte in sala aperta, io di più nel volto. Beh, dopo che aveva avuto il coso, sì, non facevano entrare più nessuno, ma prima facevano entrare tutti. Il coso è quello. Ci sono state un sacco di inadempienze che non è vera, cioè persone da a Sassari perlomeno la rinunciare tutti, lì, a rovinare tutti, perché non è possibile, cioè tu sai che da gennaio del 2019 è iniziato il Covid e non chiudi tutto e fai entrare le persone, per forza cazzo sono tutti ammalati, chi in medicina, chi in coso, chi in geriatria, chi quello, poi l'RSA eccetera eccetera, per forza, è partito solamente dalle persone esterne, non è che sia passato, è iniziato dalle persone interne, le persone esterne, quelle che lavoravano dentro, il discorso è quello lì. Siamo rimasti inculati, per quel motivo lì, a Sassari, tutti di fuori poi, alla fine avevano aperto, tutte le discoteche aperte e tutti i cazzo di positivi, quelli di Milano, di Torino, cioè, che si sono divertiti, eccetera, noi ricepiamo per il culo di sale, eccetera, eccetera, e ci facciamo, eccetera, e di là, tutti qua a Sassari, cazzo al sardo, tutti noti, non è che ci hanno messo in qualche altra, esiste solamente un coso, un ospedale, quello di Sassari, quello di Udine hanno aperto, ma dopo tanto, dopo quasi 6-7 mesi, che l'ha aperto, cazzo. Perché hanno aperto anche il policlinico, purtroppo, perché il policlinico non va, perlomeno non va a pigliare nessuno, li hanno pagati e hanno aperto, se no non avrebbero mai avuto nessuno, neanche per il Covid nessuno avrebbe avuto, eppure l'hanno voluto aprire, perché non ce la facevano più a contenere nessuno. La stessa identica cosa l'avevo fatto ieri a Roma, tale uguale, ma secondo te cazzo ti sembra sano di testa, cazzo uno, che speranza cazzo fa venire cazzo 200 persone per raccogliere i pomodori, cazzo tutti positivi, cosa cazzo ce ne facciamo qua? Si fanno 15 giorni cazzo di coso e dopo che vanno a raccogliere i pomodori cazzo e poi infettano anche gli altri cazzo, così siamo il doppio cazzo, ma questo non è sano di testa cazzo, non è possibile, non è, speranza non è sano di testa. Io me lo posso immaginare, e a tutti di niente. A proposito, non è se sai se qualcuno sta vendendo qualche sciarpa, no, che mi serve? Sì, ce l'ha Eugenio, 2,50 lo stava vendendo, mi sembra, un Kenwood, 2,50, ne voleva. Chiede Eugenio, io quanto non mi ricordo, lo stava vendendo un K a lui, a quanto ho capito io. E lei cosa risponde? Vediamo un po'. E non gli Speriamo di sì, perché invece di essere ascoltare il vice Vittorio non ne ho trovato, mi confondo di quelli e lo uso senza microfono. Quanto non è che interessi molto a parlare. Vabbè, subito Eugenio entra la mattina, mi sembra, verso le 10:30, 11, una cosa del genere. Prova a chiamarlo ogni mattina, se io sapevo, cioè, penso che abbia capito che sta vendendo, non so se un 140 o se è 80, la verità. Comunque sta vendendo un apparato come l'ha comprato lui, ha detto. Quindi dovrebbe essere quello, un Kenwood dovrebbe essere. Quindi 250, così come ce l'ha lui, con il microfono normale, eccetera, eccetera, 250 euro. Adesso non so se lui sta lavorando, non so neanche il numero di telefono suo, ma comunque sia, lui entra di solito la mattina verso le 10:30, 11, una cosa del genere, perché lui lavora di sera, lavora, quanto ho capito io, fa la notte, una cosa del genere. Andate bene in meda. Domani mattina, se lo senti a baracchino, verso le 10:30, 11, glielo dici e ci va. Oggi tu stai vedendo che comunque 140, 70, quello che è, devo dei 50, portamelo a casa, ti do i soldi e così siamo a posto. Tanto tu l'alimentatore ce l'hai, quindi non te ne fate nulla l'alimentatore. Sì, quello a 30 pezzi. E allora sei a posto, Pupettini, sei a posto. Aspetta, 9 di mattina. Adesso vabbè, se io mi sveglio presto, verso le 10, se sento il giorno glielo dico già io da prima, poi al limite se entri tu dopo ci parli insieme a lui, ti metti d'accordo, vi date l'appuntamento, scendi un attimino, cioè sali lui da produttore di Sassari, te lo porta, solo scendi tu, te lo prendi. Vediamo un po', perché domani sono un po' impegnato, non lo so se ci sono. Prova a chiederglielo tu, al limite mi fai sapere, mi dai un colpo di telefono, anche se sono in giro, da te se li faccio. Vabbè, al limite ti faccio chiamata. Non c'è problema, se sento Eugenio, già glielo dico. Aspetta un minuto e rientro subito. Tanto io vado e mi faccio il caffè allora. Mattoli. Ciao Antonio. Sono rientrato. Ho fatto un attimo. Ok, faccio il caffè e parti, tranquillo. Però amico. Inteso dai. Un po'. Ma dov'è? Antonio, ci sei? Luca, ci sei più? Ci sei? Antonio. Bombolo. Chi è? I carabinieri di Andara. A piedi o a cavallo? A cavallo, a saino. Ah, saino, così già va bene allora. Allora, Natale, tutto a posto, sì. Ehi, stavo aspettando che mi dovevo fare l'insulina, capito? Ah, capito. Già va bene, già va bene. Io mi piccherò qui a cosa, non vado dallo spigliarlo che non ando. Tanto. È un casino adesso, guarda. Stasera di cosa la peggio sarà. Tutto osservato stasera di peggio. E allora, domani è zona arancione, mi domani. Quando si va? Apriranno, domani infatti devo andare a fare la spesa, io con mia moglie. Cazzo, devo andare a buscarmi una faccia elastica perché sono sempre a mal di schiena. Ah, domani già esco con Gian Piero lì, in carrozzina. Se bevo la birra lui, se bevo la birra anch'io, al bar. Cioè al bar, ma un cazzo. Mi porto la roba, me la porto direttamente all'ingresso del garage. E beh, proprio in garage la faccia dei vicini urbani. Infatti. No, ma è aperto, domani dovrebbe essere aperto. metteranno anche i tavoli di fuori, perché zona arancione la domanda. Adesso non mi ricordo se tu uscire dal comune. Capito, quello non me lo ricordo. In zona gialla sì, ma in zona arancione non me lo ricordo. È una volta ma poi la verità. Non mi ricordo se può uscire dalla zona, cioè, dal comune, ma penso di sì comunque. Poi vabbè, hanno detto perlomeno, dice che passiamo da, se domani va tutto bene, per tutta la settimana passiamo da zona arancione a zona gialla, hanno detto, quindi poi spostati da una parte all'altra. Quindi aprono tutti i ristoranti, eccetera, eccetera, bar, tutti i tavolini fuori, non dentro, fuori, che poi ho capito che differenza ci sia, è da fuori, ma comunque sia. Ogni tanto lì ci sono gli scienziati che ci abbiamo in Italia che sono peggio i tonti, cazzo, peggio che cosa, so. Sì, mi dica. Già sono un anno che non entro al bar io, figurati. Ehi vabbè, ma io quando esco, cazzo, mi faccio una passeggiata, per dire, a piedi, quello che è, ma entro, mi piglio un succo di frutta, cazzo, ma fatto me lo devo bere in piedi, non seduto, cazzo. Quindi se sei stanco devi per forza, cazzo, crepare, cazzo, se sono 23-30 gradi, tu immagini tu con succo di frutta in mano, o rimani secco o cosa, due sono le cose, ma con l'acqua ti puoi bere. E infatti tra poco andiamo tutti dall'asino della Crucca, ce la facciamo mettere nel QSO. Guarda, io ti giuro, guarda, se avrebbero fatto la zona Covid free, l'asinara sarei andato lì, ti giuro, avrei preso il traghetto, mi avrei preso un pezzo di terreno, mi avrei fatto una casa in legno e sarei stato lì a abitare, mi avrei messo l'acqua, la luce, quella col coso, non mi era fregato niente, dato per dire ormai ci si avvangia, capito? E sarei rimasto lì, bello tranquillo a vivere, cazzo, sei andato a pescare mattina e sera, avrei mangiato tranquillo pesce, poi gli asini via ci sono, a voglia carne. Non c'è bisogno di andare a fare le lemite. Io per esempio lo stesso ne avevo una voglia di andare a pescare. C'ho quattro cani da pesca in campagna che ce ne stanno ridendo. Io ho regalato una cosa a Giuseppe Leoncino di Cano da Pesca. Figurati. Quindi io non facevo niente, Giuseppe pigliato da tu, io non faccio niente. Poi se te la vuoi vedere, te la vendi, 20 euro, chi se ne frega, gli ho detto. Io non me ne faccio niente, gli ho detto, perché non la pesca. Ma invece a me mi piace andare a pescare. E vabbè, a ognuno c'ha il suo, come si dice, a me non mi piace andare a pescare, io lo sai. Quindi forse la tasina, se tranquillo mi sarei divertito, cazzo, a farmi una bella passeggiata lì tutto il giorno, cazzo, andare a raccogliere di tutti i tipi di erba ci sono, avrei fatto un po' di cose, di infusi. C'è di tutto lì. Dice, quando c'era il carcere c'erano le pesnici che le prendevi a caldo. Di tutto lì. Infatti c'è di tutto lì all'asinara. Guarda, se avrebbero messo i migranti lì all'asinara, sei tranquillo, qui non ci sarebbe più venuto nessuno, perché avrebbero usato gli asini. Avevo fatto un bel filmato, cazzo, mandato lì in Libia. Tutti i migranti che vengono in Italia sono tutti all'asinara, cazzo. Con gli asini, cazzo. Avevo fatto un bel filmato, sei tranquillo, non ci sarebbe venuto nessuno, te lo dico, questo è poco ma sicuro. Avevo fatto un'isola, rifatti loro, bella tranquilla, non sarebbe entrato nessuno, non è uscito nessuno. Stai tranquillo, per vivere così sarebbe rimasto in Libia, questo è poco ma sicuro. Invece vengono qui, capito, convinti che c'è lavoro, c'è cosa. Perché? Perché vogliono i migranti per dargli 2 euro allora per fare i pomodori, capito? Poi ce li mandano via. Dopo finiti la raccolta dei pomodori, tutti in casa, cazzo. Tutti a casa loro. Sì, già lo so. La prima notte che passò in prigione. Cura a noi. Sotto due pacchetti di sigarette. Cosa ti volevo dire? Ah, mi sono prenotato per il vaccino e ancora non maneggia male. Guarda che chiamano da 1 al 5, mi. Se guardi su internet, l'ho visto oggi, sulla provocamera, chiamano da 1 al 5 di questa settimana. Fate la madre regione naturalmente, il discorso è quello. E a me mi hanno prenotato in farmacia, mi è arrivato anche il messaggio che sono prenotato, però non mi hanno chiamato per vaccinarmi, capito? Ehi, già ti chiameranno, basta che ti facciamo la stanzerica, se no sei morto, già lo sai. L'hanno eliminato tutti, fatti fare gli altri vaccini, ma non quello, la stanzerica, lascia perdere. E non lo so se me lo possono fare a me la AstraZeneca, perché io sono diabetico, ho avuto un infarto, ho avuto due operazioni da poco. No, non penso che te lo faccia la AstraZeneca, comunque se te lo dicono di fatelo, rifiuta. Fatti fare l'altro, non la AstraZeneca. Pfizer, BioNTech, fatti fare. Oppure Moderna, allora lascia stare Johnson & Johnson e AstraZeneca, che se no ti sceglie un come si chiama, lascia perdere, non so che hai fatto, lascia perdere, già basta, quelli che sono morti, cazzo ce ne vogliono altri, a futtidini. Si forma in pratica un coagulo lì al sangue, hai capito? Ti blocca la vena che porta il sangue al cervello, si fa tutto. Quindi a futidini e AstraZeneca, lo stanno infilando tutti, fatti fare il resto, Pfizer, BioNTech, quello che è, Moderna, ma non quello lì. La AstraZeneca lascialo perdere, che se lo mettono in culo. Sì, vabbè, non è che ci puoi rifiutare, no, se ti fanno quello. È proprio un peccato che il tuo cavallo sia capito, non è che puoi scegliere tu il vaccino, come mio non c'è niente. Tanto il medico ti fa le domande prima di vaccinarti, capito? Perché non gli dai qualche se non te lo possono fare, non te lo fanno. Non è che ti fanno le domande, vogliono prima di tutto vogliono il coso. Tutta la documentazione tua, ma rifate il vaccino. Guarda la documentazione tua e poi decideranno cosa farti. Perché l'ho visto oggi su internet, capito? Quindi se non ti possono fare la AstraZeneca non te ne fanno. Perché un sacco di gente ha rifiutato in Italia e anche fuori non sono l'altro. Non può vedere cazzo una trombosi, cazzo, per che cosa? Per il vaccino. È meglio che non te ne fai, scusa, è meglio morire col bando che morire trombando, diceva quello. E infatti, se mi chiamano e mi chiamano, se no me ne affutto e non me ne posso a nulla. Sì, ho capito che siamo per dormire, ma sognare ad occhi aperti? Tanto il 10 c'ho la visita della diabetologa. Già a me lo dovevano fare, solo perché sono diabetico me lo dovevano fare prima degli altri, non maneggia male. Puoi scegliere modello? C'è gente più giovane di me, solo perché diabetica gliel'hanno già fatto. E vabbè, comunque te lo fanno la cosa, te lo fanno giù. Alla prova camera, se vuoi vaccino, basta chiedere, non ci vuole molto, hai capito? Ci sono 5 giorni, ogni giorno c'è un coso diverso, quindi basta chiedere al medico tuo, cioè, se no fare una domanda alla regione e immediatamente ti metto di vista, capito? Ma se non te ne fate nulla, il discorso è quello. A me la verità non me ne fate nulla del vaccino. Sta bene così come sono. Io il vaccino non ne voglio. Non voglio neanche sapere la verità, perché non me ne fate proprio niente. Sto bene, sono tranquillo, respiro bene, non ho problemi. Quindi il vaccino che se lo facciamo gli altri. io non voglio morire a causa di trombosi per le cazzate degli altri, capito? Quindi sono appena finito in contatto qua, ma il discorso è questo, mi vado a fare uno di vaccino, dopo 14 giorni mi sembra di fare il secondo, dopodiché non è finita così ancora, perché ci sono le varianti, quindi ti tocca dopo altri 6 mesi fare il terzo e il quarto, hai capito? Quindi sei pieno di vaccino, sei a un certo punto. Altri, è capitato da poco, per esattezza, che hanno scritto sul giornale, l'ho visto ieri, che uno che si è fatto il vaccino si è preso la stessa variante indiana, hai capito? Quindi è come se il vaccino non avesse fatto un accidente e l'hanno isolato. E si è fatto tutti e due i vaccini, non solo di uno, ne ha fatto due di AstraZeneca, ne ha fatto due, non solo, non hanno funzionato un accidente, nulla, nulla di niente, non ne ha fatto niente quel vaccino, quindi adesso non si sa come la metterà, si è applicata la variante indiana a questo. E andare cosa? Se mi chiamano, mi chiamano, se no me ne foto. E se no io, a me da poco. Sto bene così come sono io, guarda, sto veramente bene. Sto da solo, sono tranquillo, quando esco c'è la mascherina, quello che è, come si faceva prima, eccetera, eccetera, così quanto adesso. Mi metto anche i guanti quando vado nel tram, di sicurezza, non sai che magari ci sia il virus agganciato alla, come si chiama, hai capito? Poi prendo i guanti, prendo e ce li butto. Tranquillo, se devi pigliare il virus lo pigli in qualsiasi posto, tu puoi pigliare anche dentro casa, quello che magari viene uno a casa tua, che tu neanche, magari si è fatto il vaccino, cosa del genere, è andato magari a, come si chiama, lì vicino, si è fatto una bella ciucucciu, si è pigliato la variante e l'attacca a te, il discorso è quello, il discorso è purtroppo è così. Le varianti non gli può fare niente, anche se sei vaccinato, perché l'immunità non ce l'hai subito, ce l'hai dopo quasi 6-7 mesi ce l'hai. Ce ne vuole quest'anno, ci passerà tutta l'estate, e anche tutto l'inverno prossimo ci passerà, lo dico io. Poi ci sarà la viaria, ci sarà, perché ci sono in Cina ormai c'è la viaria, anche in Germania, quindi i polli ormai non prendiamo più pollo da mangiare, li ammazzeranno tutti, quindi a un certo punto neanche quello mangeremo, cazzo più. Oramai sono messi bene quest'anno qua. E io la sento l'ambulanza, non ti preoccupare, quindi vuol dire che stava trovando l'altro, stava portando, la siamo a posto quest'anno, con l'ambulanza, prima qui c'era in giro, c'era, ogni 2 giorni venivano 2 ambulanze per pigliare gente lì dal coso, dall'RSA che c'è qua su, figurati tu. Le prime volte adesso non va male, sono 2 giorni che non sento niente, l'altro giorno sono salite 3 volte, sono salite, quindi mi ha portato via 3. Entra tranquillo, poco fa ma io cosa me l'ho fatto, la verità, il tampone insieme a Giuseppe Leoncino. Sono andato via Vizzedu, negativo il tampone, quindi sono a posto, sono tranquillo. E non ne faccio altri, cazzo già fa poco male quel cavolo di tampone, tu infila la fila lì, cazzo è come se ti avessi infilato, cazzo, la mincia e cazzo nel naso, cazzo. Quindi già lo so, ne ho fatto 3. La prossima volta dico, ascolti, faccio una cosa, mi infili il coso, il tampone in culo, che è meglio. Allora, la piccola, almeno dopo se mi piace. E in Cina lo fanno così adesso, non hai visto? Fanno il tappone là, cazzo in culo lo fanno adesso. Non lo fanno più nel naso, dice che non vale più un cazzo fare quello del naso. È meglio quello del culo, cazzo. sei stato inventato una all'invento. Quindi a me all'ospedale c'era un'infermiera che veniva tanto di via e si infilava un tubo di drenco. Ma che è così, cioè, purtroppo è così. Cosa ci vuoi fare? Ormai ci avevano tutti i buchi aperti, mi bocca in culo, quello che ci manca solamente che la roba gliela faccia loro, nelle come si chiama, a Gigio, che siamo apposta qua. Ormai mi hanno messo il tampone 3 volte. Grazie amico, grazie, tampone qua, tampone là. È tutto partito dai cinesi, cazzo. Da dicembre del 2019, cazzo. Hai capito? Dicembre 2019. Oh, Giulia, cazzo. Siamo andati bene, cioè, quest'anno, cazzo. Perché bisogna rubare la bomba atomica con la gente. Trovare il modo di adattare. Il modo di terminare il giudizio. Perché hanno una mania di vendere la roba, come, cioè, loro sai che vendono i cose, le galline, i polli, tutti, sono vivi, li ammazzano davanti a te, non è che, quindi a un certo punto, presi, cioè, chi vive in città fa bene, chi vive invece nei cosi, cosa ti posso dire, nella tua terra, come dire, a nuovo, o cosa del genere, che è una zona che lì c'è di tutto. Lì le malattie ci sono, tanto per dire, è una cosa del genere, capito? All'interno lì, la Cina, lì ci sono malattie, quindi loro se ne sono sempre sbattuti. A un certo punto è partito tutto da lì, da lì c'era un porto in pratica che va a tutti i posti e quindi è infettato a tutti. Yeah. Non avrei fatto domande se non mi avessi ringrazio per farti fatto tra caffè e colli. Certo, mi sai quando vinerai qualcosa, boh? Io penso fa 2 anni, se tutto va bene. Sempre se non ci becca la viaria, perché adesso c'è la viaria. Quindi pratica tutti i volatili che ci sono in giro, sono tutti malati, hai capito? Comprese a parte poi gli animali, quelli la pelliccia, capito? Quindi ci toccherà, anche quello ci toccherà, te lo dico io, dopo quello ci toccherà la viaria. Io sono i canarini qua, ma lui deve rubare il suo meglio di spazio. E vabbè, i canarini mica escono dalla gabbia, no? Io parlo di quelli esterni, piccioni, uccelli migratori, roba del genere, quello è la zona di Cagliari, per dire. E quello che è, se dovesse succedere che ti trovi cazzo 2 o 3 piccioni, cazzo che sono morti sotto casa tua, sta qualcuno che ce l'ha viaria, qui te poco va sicuro. Non è che sono morti per sbaglio, sono morti per febbre, capito? Perché loro sai che hanno un'influenza. Beh Antonè, io me ne vado a curicarmi, dai, ti saluto. Alle prossime, dai. E io, ok, ciao Natali, ci sentiamo al limite, ma domani là. Tanto domani esco con Gian Piero, lo porto a fare una passeggiata, prendo una birra, poi dopo di che entro a casa. Poi appena, cosa ti posso dire, me la faccio una gialla, la prossima settimana, ti chiamo, andiamo a berci qualcosa, a me la puoi uscire, cazzo. Intanto, cioè, uscire dal zona Lancione è un casino, cazzo. Cioè, devo stare cazzo sempre attento, cazzo, noi, tu di dove sei, ti dico, guarda, sono di qua, no, tu sei di qua, ti metto la multa, capito? Se siamo invece in zona gialla, posso tranquillamente passare da te, ti chiamo, ci beviamo una cosa, andiamo al bar o quello che c'è più vicino. Ma vabbè, il circolo intanto apro solamente zona bianca. Quindi a un certo punto Marco al ciclo puoi andare. Ma me lo al bar, vicino ce l'abbiamo, va. Quello che c'è in questo Vittorio Emanuele. Ehi, c'è pure un occhipizzino là, se paghi su. Vabbè, dai, ci sentiamo, Antonè. Guarda se senti Eugenio, mi fai sapere. Ehi, vabbè, se sentavo dopo di mattina, come di solito lui entra di mattina dopo 10, 10:30, 11. Se sento Eugenio, lo dico, guarda che lì in cosa, il baracchino tuo lo vuole, cioè, lo vuole cosa? Natalino. Dopodiché, tanto se voi abiti qui non è un problema, lì mi dico, sale a Sassari e devo far vedere, ti metti d'accordo, se sono pure non c'è problema. Andà bene. Buonanotte. Ok, altrettanto, ciao Natalino, buonanotte, buon tutto, alle prossime.